Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Eccoci di nuovo, buon lunedì 23 febbraio e benvenuti al podcast di Effetto Giorno da Simone Spezia, come sempre al microfono. Grazie per averlo scaricato, se non l'avete ancora fatto, lo dico sempre, iscrivetevi al podcast così potrete avere l'aggiornamento costante, saprete quando sarà arrivato quello nuovo che cerchiamo di far arrivare il prima possibile, nel primissimo pomeriggio. Alcuni di voi ci hanno scritto, preferiremmo avere la trasmissione così com'è e poi anche il podcast. Al momento è una cosa che non riusciamo a fare tecnicamente, cioè non è un problema nostro, non è un problema di cattiva volontà, ma tecnicamente è un po' complicato farlo. Stiamo risolvendo piano piano, anche perché tra poco ci sarà qualche innovazione per quanto riguarda il sito di Radio 24. Non vi anticipo niente. I nostri contatti, Effetto Giorno, che ho radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e se volete anche il mio account Twitter Simone Spezia. Oltre a tutti i temi di giornata, avete sentito i titoli della trasmissione, tra poco entreremo nel dettaglio di tutto quello che è successo, a partire dalle vicende della Grecia, passando per le polemiche che ancora proseguono per quanto riguarda gli scontri di Roma, i tifosi del Feyenoord che hanno invaso la città, ci occuperemo del Parma, ci occuperemo della morte del pentito Carmine Schiavone. Oltre a tutto questo, la bonus track di oggi, per così dire, è la storia di Paola Giuliani. Paola Giuliani, una donna di 56 anni, è una dirigente del comune dell'Aquila che ha vinto una battaglia legale durata 2 anni. E qual è stata questa battaglia legale? Si era beccata 3 giorni di sospensione per non aver provveduto in maniera sollecita a far trovare al consiglio comunale, cioè agli eletti dell'Aquila, le bottigliette d'acqua nel giorno della riunione del consiglio comunale. Le avevano dato 3 giorni di sospensione, ha vinto dopo 2 anni la sua battaglia legale e noi l'abbiamo intervistata, vi faremo sentire che cosa ci ha raccontato. Iniziamo dalla Grecia, la cronaca, il racconto di quello che sta per presentare Alexis Tsipras e soprattutto come viene effettivamente percepito. Insomma, è una cessione all'Europa, è un permanere nell'austerity oppure no? Vittorio Darold, inviato del Sole 24 Ore. Il governo Tsipras sta cercando di proporre alla Troica, anche se oggi si chiama le istituzioni con questa nuova dicitura voluta appunto dai greci, un piano di riforme che prevederebbe una lotta all'evasione fiscale con una patrimoniale sui grandi patrimoni sopra i 300 o i 500 mila euro e una maggiore contrasto del contrabbando di petrolio che in Grecia stimano gli esperti è valutato dai 2 ai 2,5 miliardi di euro in meno nelle casse dello Stato. Poi ci sarebbero anche altre indiscrezioni che parlano di una richiesta del governo greco per poter aumentare il salario minimo perché questo non entrerebbe nei conti pubblici, ma qui ci sono delle resistenze da parte soprattutto del Fondo Monetario Internazionale che ha fatto di tutto per far aumentare la competitività. Sembra anche che il quotidiano Tanea, il più importante quotidiano greco, abbia detto che una bozza della lista sia stata mandata ieri a Bruxelles in via informale per evitare una bocciatura che naturalmente riaprirebbe tutti i giochi. Quindi c'è un grosso contrasto ancora anche all'interno del partito Siriza, sì, perché appunto è abbastanza diviso. Su questo sentiremo un servizio tra un attimo. Intanto, Vittorio, vorrei capire da te, perché anche su questo si sta dividendo il partito di Siriza e ci sono molte discussioni naturalmente anche in Italia. È la fine dell'austerity per la Grecia o in realtà no? Dunque, è una possibile svolta, nel senso che il governo greco ha ottenuto una maggiore flessibilità che però dovrà dimostrare sul campo, ad esempio riducendo l'avanzo primario che era previsto al 4,5% nel 2016 e al 3% per quest'anno, il governo greco avrebbe appunto delle entrate supplementari perché oggi la Grecia, lo ricordo, è a pari nei suoi conti, quindi se noi non calcolassimo minimo il costo degli interessi, il paese non avrebbe più bisogno di aiuti. C'è naturalmente tutti gli interessi e tutto il debito da ripagare, però al momento, se viene ridotto la parte che dell'avanzo primario che viene destinato alla riduzione del debito, questo darebbe una certa possibilità al governo di fare quelle operazioni di diminuzione dell'austerity. Quindi io vedo il bicchiere mezzo pieno, cioè Tsipras ha ottenuto un margine di flessibilità maggiore, che però naturalmente dovrà poi riuscire nei 4 mesi che mancano a rendere attuare. Questo naturalmente è molto complesso, una scommessa tutta da vedere. Restano in primo piano le devastazioni dei tifosi del Feyenoord nel centro di Roma, soprattutto a Piazza di Spagna. Restano in primo piano le polemiche sulla sicurezza e soprattutto si guarda a sabato prossimo. Cosa succede sabato prossimo? C'è una manifestazione organizzata da Matteo Salvini e dalla Lega Nord insieme a Fratelli d'Italia, ci sarà anche Casa Pound, e una contromanifestazione che però non è ancora stata autorizzata, dei centri sociali, dell'ANPI, della sinistra, forse anche della sinistra più radicale. Naturalmente si temono scontri, si teme anche qua la gestione dell'ordine pubblico, il servizio. Sono stati espulsi dal nostro paese i 6 tifosi del Feyenoord arrestati per gli scontri con le forze dell'ordine avvenuti il 19 febbraio in Piazza di Spagna. Nei confronti degli hooligans, per i quali è stato disposto il divieto di dimora in Italia, il PM contesta i reati di resistenza pubblico ufficiale e lesioni. Intanto, mentre il sindaco di Roma Marino e l'assessore allo sport Masino hanno proposto alla FIGC un'amichevole Olanda-Italia da giocare a Rotterdam e il cui ricavato servirà a riparare i danni di Piazza di Spagna, solidarietà concreta arriva dalla stessa Olanda con l'azione Scusa Roma Acti, lanciata via web da una cittadina olandese che in 2 giorni ha raccolto circa 4.000 euro. L'obiettivo è di raggiungere quota 100.000 euro per contribuire a restaurare la barcaccia di Piazza di Spagna. I timori dei romani sono per ora rivolti a 2 manifestazioni previste per sabato prossimo. Una del leader leghista Matteo Salvini, cui aderisce anche un'associazione culturale legata a Casa Pound, e un'altra, non ancora autorizzata dalla questura, organizzata dalla sinistra romana in contrapposizione a quella leghista. Ed è già scattata l'allerta per la paura di infiltrazioni di frange violente in entrambe le parti. Prima di sabato gli occhi sono però puntati anche su Firenze, dove giovedì gioca il Tottenham. Mi aspetto, come è sempre successo, che la prefettura e le forze dell'ordine si comportino con la massima attenzione, ha detto il primo cittadino toscano Nardella, il quale in un'intervista al Messaggero ha dichiarato: servono pene esemplari come il ritiro del passaporto ai tifosi violenti. Adriana Fracchia, Radio 24 e Sole 24 Ore. Molti di voi su questi temi ci hanno scritto via SMS dicendo che appunto la polizia doveva essere più dura con i tifosi del Feyenoord subito. Insomma, bisognava picchiarli sul posto, per così dire, fermarli prima che potessero compiere delle devastazioni. Abbiamo intervistato su questo e anche su quello che succederà sabato, sulle preoccupazioni che ci sono, Daniele Tissone, che è segretario generale della SILP-CGL, il sindacato italiano lavoratori di polizia. Abbiamo iniziato chiedendogli se ha sbagliato il questore, se ha sbagliato il prefetto, se c'è stato effettivamente un errore nella gestione dell'ordine pubblico. Sentite cosa ha risposto. Io credo che le valutazioni relative all'ordine pubblico sono sempre quelle, l'obiettivo a cui mira è di non creare feriti tra le persone che non c'entrano nulla. Penso che in quel momento una città come Roma, una sorta di città fragile, museo all'aperto, voglio dire perennemente affollato da turisti, questo fosse l'obiettivo primario di chi esercitava l'ordine pubblico. Ritengo che non si possa sempre scaricare sulle forze di polizia e solo sulla gestione dell'ordine pubblico. Forse si poteva fare di più in termini di prevenzione. Ma anche la prevenzione è affidata alle forze di polizia, o mi sbaglio? Ma sicuramente sì, quindi io voglio dire nessuno, ognuno deve fare la sua parte. Penso ad esempio all'abuso dell'alcol, penso che far rispettare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche, magari notificando per tempo le ordinanze, estendendole magari anche alle aree più vaste della capitale con una lotta più incisiva all'abusivismo contro coloro che somministrano alcol, sia una forma di prevenzione. Poi se aggiungiamo a questo che il flusso dei cittadini olandesi è stato più elevato del previsto, mi riferisco ai flussi autonomi, questo ha creato... Sì, non quelli, non quelli organizzati, esatto, questo cosa vogliamo ricordarlo un po' agli ascoltatori, perché molti dicono non si potevano controllare dall'inizio alla fine, molti dei tifosi di quelli che hanno fatto quella confusione nel centro di Roma, quel disastro nel centro di Roma, erano persone arrivate senza biglietto e autonomamente e quindi ovviamente molto più difficilmente controllabili, evidentemente. Esatto, qui entra questo in gioco anche le informazioni provenienti dall'Olanda, che sono importanti, e poi si tratta di cittadini che comunque godono piena libertà di movimento nel nostro paese. Sì, è chiaro che esatto, è chiaro che averli contenuti in quel luogo che ha provocato danni alla fontana del Bernini, alla Barcaccia, dove peraltro hanno provato a spostarli, ma anche un utilizzo dell'uso della forza in quel particolare momento avrebbe potuto aggravare la situazione. Avrebbe potuto aggravare la situazione, dice lei, perché molti ascoltatori ci scrivono fin da quel giorno, dicono questi erano, la dico proprio brutale, erano da prendere ammazzate, cioè in una qualsiasi città d'Europa sostanzialmente se c'è uno che fa pipì contro un muro completamente sbronzo, anche solo per quello, insomma, viene fermato e portato via. Certo, però qui erano in molti, erano insieme ed erano sotto l'effetto di queste bevande alcoliche. E poi mi sembra di ricordare che non erano solo lì alla Fontana, ma molti si trovavano un po' a Campo di Fiori, un po' in altre località della città. È chiaro che qui si chiede di usare la mano pesante alle forze di polizia. Io ricordo anche che spesso quando usano la forza pesante siamo i primi a essere, come dire, siamo i primi verso i quali poi piovono le condizioni. Molti ascoltatori ci dicono quando dovete manganellare gli operai lo fate subito, questo glielo devo dire. Ma guardi, io credo che sugli operai non bisogna mai alzare i manganelli, quella posizione nostra del sindacato di polizia affiliato alla CGIL è questa. Ripeto, sono valutazioni afferenti l'ordine pubblico che, ripeto, in quelle determinate circostanze possono valutare solo le forze che sono presenti in campo. Ultima domanda, Tissone. È preoccupato, siete preoccupati per la giornata di sabato nella quale ci sarà questa manifestazione della destra, di Matteo Salvini, Fratelli d'Italia e via dicendo, e una manifestazione in realtà ancora non autorizzata, ma non escluso che poi la gente si raccolga lo stesso, come lei sa benissimo, conoscendo anche come funzionano le piazze, della sinistra, con una contromanifestazione, siete preoccupati? Ma guardi, c'è sempre preoccupazione. Abbiamo parlato di Roma come una città fragile, di Roma come una città che è costantemente sotto pressione sul versante delle molte manifestazioni nelle quali si tengono appunto nella capitale. Io credo che il problema maggiore sia appunto, come diceva lei, chi non è autorizzato o comunque una serie di persone che possono essere anche in numero maggiore. Molto secco. C'è preoccupazione per questa giornata di sabato o no? Sì, credo di sì, un po' di preoccupazione, come del resto c'è sempre, ma credo che l'alta professionalità delle forze di polizia saprà comunque affrontare tutti i disagi dei cittadini e che comunque, ripeto, non si tratta sempre di situazioni che si possono risolvere solamente con l'ordine pubblico e con la repressione. Maggiore prevenzione, magari se c'è da modificare qualcosa anche rispetto agli obiettivi, però la salvaguardia e l'incolumità delle persone penso che sia a cuore di chi opera e non solo. L'importante è anche che le istituzioni non aumentino tra loro le polemiche. Abbiamo parlato di calcio e violenze, ossia dei tifosi del Feyenoord e di quello che hanno fatto. Adesso parliamo di calcio ed economia, di condizione economica del calcio e di una squadra in particolare, il Parma, per il quale sono ore decisive e ci sono anche delle preoccupazioni che riguardano l'assetto stesso del campionato, perché il Parma potrebbe addirittura uscire dal campionato lasciando le squadre che ci hanno già giocato in questo girone di ritorno con il risultato acquisito e tutte le altre con una vittoria per 3-0 a tavolino. Il servizio. Basta, è quasi finito tutto, la pazienza dei tifosi, l'acqua calda nelle docce, i soldi per le spese più banali. Ma che brutta storia questa del Parma, sempre più vicino al baratro del fallimento. Brutta ma anche molto italiana, con buchi neri nel bilancio, presidenti senza credibilità, menzogne e pasticci che coinvolgono anche la Federcalcio, la Lega e gli organi che al posto di vigilare hanno dormito. Adesso hai voglia a dire, come fa il presidente Tavecchio, che il campionato non sarà falsato, ma in caso di ritiro tutte le prossime gare del Parma finirebbero 3-0 a tavolino a favore degli avversari. 3 punti garantiti per la Juventus, solo 1 invece per la Roma, che all'Olimpico in precedenza aveva pareggiato. Oggi il sindaco di Parma, Pizzarotti, è stato in tribunale, ma l'incontro più importante sarà domani col presidente Manenti. Gli chiederemo di darci delle sicurezze e lui dovrà fare le sue valutazioni. Se non è in grado di andare avanti, che si faccia da parte, ha detto Pizzarotti, che cerca una soluzione per salvare il salvabile. Magari un fallimento pilotato, ma è giusto che nel calcio si metta sempre una pezza, che il pallone sia considerato un'azienda al di sopra delle regole per cui bisogna sempre intervenire? Forse è da qui che bisogna ripartire. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E visto che siamo sullo sport, per quanto lo sport, insomma, che si mescola con una storia aziendale problematica, restiamo sullo sport e parliamo però di basket. Parliamo di una squadra che sta investendo molto, ma per la quale al momento non sembrano arrivare i risultati sperati. Milano. Spende, spande, ospita, organizza, ma particolare non trascurabile, non vince. O almeno non quanto dovrebbe la Milano griffata Armani, che sotto gli italici canestri ha strappato lo scettro a quella Siena discioltasi in lacrime e scandali finanziari. Considerato il campionato, visto il divario di budget e rosa dalle avversarie, come un piacevole intermezzo in attesa dei playoff, la campagna in Europa, cioè quella che conta davvero, quest'anno è decisamente meno soddisfacente di quella della scorsa stagione. E poi ecco il nuovo scivolone in Coppa Italia. Arrivata come gran favorita alla 3 giorni delle Final Eight di Desio, l'Olimpia si vede strappare, 94-101 il risultato, il trofeo da Sassari, che conserverà la Coppa in Sardegna per un'altra stagione, dopo il sorprendente successo di 12 mesi fa. Stavolta invece la vittoria dei sardi non stupisce nessuno, visto il talento e la qualità del basket giocato dai ragazzi di Meo Sacchetti. In poche parole, i biancocelesti hanno cuore e anima, quelle che Milano cerca da un bel po' e che sembra aver smarrito tra smanie di grandezza e illusori proclami. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La morte di Carmine Schiavone, primo pentito dei casalesi, l'uomo che svelò tutto sulla cosiddetta Terra dei Fuochi. Morte che è avvenuta ieri, ci racconta tutto e analizza il tutto Daniele Biacchessi. Era il dicembre 1992, il boss della camorra del rione Traiano, Nunzio Perrella, decide di pentirsi e quel giorno nel carcere di Vicenza si trova faccia a faccia con il procuratore Franco Roberti. «Dottò, non faccio più droga. No, adesso ho un altro affare. Rende di più e soprattutto si rischia molto meno. Si chiama monnezza, dottò». Così lentamente i clan camorristici, già nella fine degli anni 80, inizi anni 90, intravedono il nuovo grande affare, perché, come dice Perrella, la monnezza è oro. Al vertice della cupola della monnezza si piazzano subito i casalesi, che operano una vasta area tra le province di Napoli e Caserta. E a capo dell'organizzazione c'è in quegli anni senza dubbio Carmine Schiavone, detto Carminuccio, il primo pentito dei casalesi. Cura di persona la gestione degli appalti, delle opere pubbliche, mette in relazione la criminalità e la politica. Con il suo pentimento gli investigatori iniziano a scoprire un mondo che non conoscono, il sistema di Cipriano Chianese, quello della cosiddetta Terra dei Fuochi. Un terreno di loro proprietà diventa una discarica di rifiuti legali e illegali, poi viene venduto dalla camorra allo Stato per realizzare una strada che poi viene coperta. Il clan guadagna da ogni passaggio. Si apre una discarica, la riempie di rifiuti legali, poi di rifiuti illegali, poi quella stessa terra la si vende allo Stato e lo Stato affida poi alle imprese della camorra le opere di costruzione sopra la terra avvelenata. Purtroppo il sistema non è morto con la scomparsa di Carmine Schiavone, perché se è vero che la monnezza è oro, è altrettanto vero che i rifiuti restano ancora oggi un'emergenza infinita. E dove c'è una emergenza c'è il crimine organizzato, perché emergenza è gioco forza sinonimo di attenuazione o evanescenza dei controlli di legalità, cioè si rischia di meno e si guadagna di più. Sulla figura di Schiavone abbiamo sentito anche Antonello Ardituro. Antonello Ardituro è un magistrato, autore tra l'altro del libro appena uscito Lo Stato non ha vinto, la camorra oltre i casalesi, edito da La Terza. Ardituro è stato l'uomo che ha sostanzialmente accompagnato Schiavone nel momento nel quale Schiavone illustrava agli stessi magistrati, in questo caso i magistrati di Caserta, Arditura era in servizio a Caserta, illustrava i luoghi dove erano stati fisicamente sepolti i rifiuti. Sentiamolo. Negli ultimi anni Schiavone ha ribadito alcune delle dichiarazioni che aveva fatto in passato e quindi sono stati fatti dei sopralluoghi, delle verifiche e si è potuto accertare che chiaramente le sue dichiarazioni già rilasciate nel lontano 93 ai magistrati e 97 alla commissione parlamentare sul ciclo dei rifiuti erano dichiarazioni molto allarmanti che avrebbero meritato un'altra attenzione. Arditura, dal punto di vista criminale, soprattutto nella sua seconda vita da pentito, che figura è stata Schiavone? Che rilevanza ha avuto? Ma Schiavone è stato il primo pentito del clan dei Casalesi nel 1993, quindi è stato il camorrista che ha rotto il muro di omertà e che ha consentito di iniziare le indagini e poi quel importantissimo processo che è noto come il processo Spartacus, che ha stabilito le grandi responsabilità di questo clan nella provincia di Caserta e non solo, e che ha consentito di condannare tutti i boss più importanti all'ergastolo. Quindi è stato fondamentale l'apporto di Carmine Schiavone. Un apporto fondamentale. Vorrei chiederle perché il suo libro si intitola così: Lo Stato non ha vinto. In una giornata come oggi, secondo me, è importante tornarci. Si intitola così perché c'è un paradosso molto forte, soprattutto con riferimento al clan dei Casalesi, ma in generale alla lotta alle camorre, alle mafie. E il paradosso è che c'è una parte dello Stato che ha svolto fino in fondo il suo lavoro di contrasto, di repressione, e per esempio nei confronti dei Casalesi sono stati raggiunti degli enormi risultati, tutti i boss più importanti sono in carcere, hanno condanni all'ergastolo e così via, sono stati sequestrati anche patrimoni e confiscati per centinaia e centinaia di milioni di euro, però c'è una parte dello Stato che purtroppo ha denotato connivenze, complicità, rapporti oscuri e soprattutto non si è offerto alle giovani generazioni un'alternativa che consentiva di superare davvero lo strapotere della camorra. Quindi lo Stato non può aver vinto nella misura in cui una parte dello Stato ha continuato a far finta di nulla o addirittura ad essere complice dei affari come quello sui rifiuti della camorra. Siamo agli spettacoli, spettacoli che si compongono naturalmente degli Oscar, e però noi vogliamo partire da un lutto, riguarda quello di Luca Ronconi, 82 anni, uno dei più grandi registi teatrali italiani, forse il più grande. Era in forze al Piccolo Teatro di Milano, dove era direttore artistico, la sua ultima opera Lehman Trilogy, un racconto della storia della famiglia Lehman, quindi non solamente del fallimento di Lehman Brothers, della banca. Abbiamo intervistato, abbiamo avuto in diretta con noi Sergio Escobar, il direttore del Piccolo Teatro, che ci ha detto, insomma, è impossibile ricordarlo. Sentite perché. La parola ricordo è, credo, la più lontana da quella che io userei riferita alla mia amicizia, al mio lavoro, soprattutto 35 anni con Luca Ronconi e 16 anni quasi qua al Piccolo, perché è difficile parlare di ricordi con un uomo con cui sono divise molte cose, ma molte emozioni, ma ogni volta si ricominciava da capo. Il suo è un teatro infinito, non a caso il titolo anche di uno spettacolo magnifico che abbiamo realizzato insieme nel 2002, che era Infinities, ed era ogni volta una sorpresa, una scommessa per ciò che non si sapeva. Era anche un gioco molto, molto umano, molto divertente, molto, molto da gatto col topo con i testi che si mettevano in scena. A proposito di Lehman, il testo, prima che fosse pubblicato, anche girava già come copione, come bozza, e ogni tanto compariva sul mio tavolo, ogni tanto compariva sul suo, poi da suo spariva e allora io lo facevo ricomparire sul mio, gli girava intorno perché ne aveva una grande attrazione. Parlavano pochissimo, in modo esplicito, dei dubbi o degli stimoli che portavano al testo, proprio dei frammenti, poi man mano ci si avvicinava e alla fine il gioco col gatto col topo diventava che il gatto era lui, si faceva vincere insieme a me che ero con lui dalla curiosità, perciò che non si sa. Lui ha sempre detto: io di economia non mi sono mai occupato, ma è proprio questo che mi diverte, affrontare delle cose che si ritengono conosciute, chi non sa della Lehman Trilogy, e scavare nel testo, mai prendere il testo come un pretesto, scavare nel testo e trovare nelle parole, nel teatro di parola, nella scrittura, l'opposto dell'ovvio, l'opposto di quello che si dà per scontato, l'opposto della cronaca che uccide ogni forma di divertimento, di conoscenza. Ed è questo che secondo lei Ronconi ha rappresentato nel mondo del teatro? 50 anni di regie sono tanti. Ma non c'è dubbio, guardi, io ne ho condiviso il periodo della lirica prima, perché mi occupavo di quello, e anche lì c'era questo atteggiamento sempre quasi sognone nei confronti dei testi più noti e invece profondissimo nei testi musicali meno noti. Lehman Trilogy secondo me rappresenta, ma non è retorica, perché è l'ultimo spettacolo che lui ha realizzato qui con noi, con me al Piccolo, ma è proprio la summa di questo, cioè una cosa che sembra nota, che sembra ovvia, che viene riscattata totalmente da una curiosità, non esito a definire, fatta di dettagli, artigianale, di uso veramente rispettosissimo. Solo gli stupidi dicevano che lui usava gli attori come delle macchine teleguidate, non è vero. Io passavo pochi minuti a stimolarci a vicenda su fare o non fare una cosa, e poi ho avuto la fortuna, e so che lui era felicissimo di questo, invece di passare ore e ore alle prove al tavolino, cioè quando ci si mette col testo, con gli attori, e si scopre che le parole hanno un senso che vanno ben oltre quello del quotidiano, della cronaca. Lehman Trilogy da questo punto di vista credo che sia veramente un capolavoro, non è un testamento, perché il teatro non è mai finito. Tra l'altro voglio ricordarvi che Lehman Trilogy è stata al centro di un'iniziativa realizzata da Radio 24 e dal Piccolo Teatro insieme, una iniziativa che c'è stata nella sede della Borsa Italiana, c'è stato tra l'altro uno degli ultimi interventi pubblici di Luca Ronconi, c'era anche Sergio Escobar, c'era il nostro vice direttore Sebastiano Barigioni, purtroppo il coordinatore del dibattito ero io. Stasera manderemo in onda uno speciale su questo alle 22, una riduzione del racconto che c'è stato, nel quale ci sono stati anche interventi degli attori, parti recitate, ci sembra che sia venuto fuori un bel prodotto e stasera lo potrete ascoltare. L'altro pezzo degli spettacoli di oggi sono gli Oscar. The Oscar goes to Who gave this son of a bitch his green card? Birdman. Alla fine è stato l'anno di Birdman, la storia di Regan Thompson, attore in cerca di un riscatto e della liberazione dal suo ruolo più ingombrante, ha portato a casa 4 Oscar pesantissimi: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior fotografia. Una festa per il regista Alejandro González Iñárritu, messicano, come il vincitore dell'anno scorso, Cuarón. Two Mexicans in a role that's suspicious, I guess. Due registi messicani per 2 anni di fila è sospetto, ha scherzato Iñárritu. Forse l'anno prossimo il governo stabilirà per l'Academy delle regole sull'immigrazione. Prego che chi vive in Messico riesca ad avere il governo che si merita, ha detto, e che la nuova generazione degli emigrati negli Stati Uniti venga trattata con la stessa dignità e rispetto di quelli che li hanno preceduti e hanno costruito questa grande nazione di immigrazione. 4 statuette anche a The Grand Budapest Hotel, tra queste anche quella per i costumi di Milena Canonero. Thank you, Wes. You've been a great inspiration. You are like Grazie Wes, ha detto la Canonero al regista Anderson, sei stato una grande ispirazione, sei come un direttore d'orchestra. 3 Oscar per Whiplash con il miglior attore non protagonista J.K. Simmons, i migliori attori Julianne Moore, che interpreta una donna ammalata di Alzheimer in Still Alice, e Eddie Redmayne, l'astrofisico Stephen Hawking in La teoria del tutto. Per il resto, sceneggiatura non originale di Imitation Game, miglior film straniero Ida, miglior film d'animazione Big Hero 6, migliori effetti speciali Interstellar e solo un Oscar per American Sniper, montaggio sonoro. La cerimonia? Senza brividi particolari, politicamente correttissima. Appelli alla libertà d'espressione, alla parità. Patricia Arquette, miglior attrice per Boyhood, chiede uguali compensi per donne e uomini. John Legend, Oscar con Common per la canzone Glory per Selma, film che racconta l'inizio della lotta per i diritti civili negli Stati Uniti, parla delle discriminazioni razziali al giorno d'oggi. There are more black men under correctional control today. Ci sono più neri in carcere oggi che non in schiavitù nel 1850, ha detto sul palco Legend. Gli eventi del film sono di 50 anni fa, ma Selma è ancora oggi. The hills are alive with the sound of music. Il momento più emozionante, Lady Gaga, che a sorpresa omaggia Julie Andrews. E quando la Andrews sale sul palco, tutti si commuovono. Nell'In Memoriam, infine, viene ricordata Virna Lisi, ma dimenticato Francesco Rosi. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere la bonus track di oggi è la storia di Paola Giuliani, come vi dicevamo in apertura, una donna che ha vinto una battaglia legale di 2 anni contro il comune dell'Aquila, che l'aveva sospesa per 3 giorni perché? Perché non aveva portato le bottigliette d'acqua per la riunione del consiglio comunale. Sentiamola. Sì, praticamente io in quel periodo ero la dirigente del settore segreteria generale e ho portato quel giorno in particolare una delibera in consiglio comunale, quindi il sindaco vuole che ogni volta che si discute una delibera di nostra competenza si debba essere in consiglio per supportare i consiglieri, sì, per ogni decisione ovviamente. Sì. E quindi, questo supporto comprende anche il conforto idrico, per così dire. No, il conforto idrico spetta agli uscieri, però purtroppo l'usciere ha detto al consiglio comunale era stato dal segretario generale trasferito ad altro settore. Sì. Io avevo fatto presente che questo avrebbe potuto causare delle difficoltà, perché purtroppo sa come funziona. Il problema, lo riassumiamo per gli ascoltatori, è che non c'erano le bottigliette d'acqua nel luogo dove si doveva riunire il consiglio comunale. Era di luglio, faceva caldo, ovviamente mentre si discute comunque si ha bisogno dell'acqua, è un supporto indispensabile, però non c'era nessuno che la prendesse. Il segretario voleva che, ha visto che io ero presente, si è rivolto a me e voleva che io ordinassi ad un dipendente presente di andarla a prendere. Questo sì. Dipendente non è un usciere, ha più volte manifestato la sua indisponibilità a svolgere funzioni da usciere, perché giustamente è a un livello diverso. Se non lo fa per cortesia, io non posso ordinarlo. Allora mi sono preoccupata di telefonare ad un autista per chiedergli di andare a comprare una cassa d'acqua e portarla con la macchina in consiglio comunale. E questo è avvenuto? Mentre stava portando la cassa d'acqua, il segretario si è rivolto a me dicendomi: ho provveduto io, ho fatto tutto io, e quindi ho annullato la richiesta fatta all'autista e dopodiché mi sono ritrovata con l'addebito perché non avrei collaborato. E quindi le hanno dato 3 giorni di sospensione e a quel punto lei ha iniziato una battaglia legale, perché insomma... La battaglia era portatrice d'acqua. Sì, io sono convinta di aver portato tanta acqua nella mia vita e continuo a farlo. Non mi vergogno di dirlo, ma io ritengo che noi siamo dei portatori d'acqua per l'amministrazione comunale, sì, ma questo ha dei limiti. Senta, le hanno dato 3 giorni di sospensione, appunto lei ha iniziato una battaglia legale, adesso questa battaglia è vinta. Questa battaglia è vinta anche perché poi di fatto l'amministrazione, dopo avermi applicato questa sanzione, non si è costituita a difendersi, dimostrando quindi peraltro che era un pretesto, un dispetto, non lo so come definirlo. Quindi in tribunale non si sono difesi. Ed è stato condannato a pagare anche il sindaco, come mai? No, in questo caso è stato condannato il comune a pagare le spese. E la condanna a cui lei fa riferimento è quella relativa al ricorso che io ho notificato per il mobbing, perché avevo ovviamente, questo dell'acqua è un episodio che si inserisce nel contesto più ampio del mobbing che io ho subito. La ringrazio, grazie a Paola Giuliani, dirigente del Comune dell'Aquila, che appunto è riuscita a vincere la sua battaglia. 3 giorni di sospensione annullati, e quindi le hanno ridato quei 3 giorni di stipendio, in sostanza, no? Diciamo che in effetti la cosa anomala è che poi questi 3 giorni di sospensione e di riduzione dello stipendio non me l'hanno mai applicati, quindi è rimasto tutto sulla carta. Grazie Paola Giuliani, buona giornata. Grazie a lei, grazie mille. Ed è tutto per il podcast di Effetto Giorno. Le vostre valutazioni, le vostre opinioni sono importantissime. Effetto Giorno @radio24.it per scrivermi sia i complimenti ma soprattutto le critiche, che sono più importanti perché ci permettono di migliorare. Effetto Giorno ha anche una pagina Facebook, www.facebook.com/effettogiorno, e c'è anche il mio account Twitter, Simone Spezia, si scrive con la T, Simone Spezia, @SimoneSpezia, mi trovate molto facilmente. Il ringraziamento per la parte tecnica va a Pietro Lacorte, per la parte redazionale ad Alessandro Marco Tulli. Vi ringrazio, ci risentiamo ovviamente domani alle 13 e poi nel primo pomeriggio con il podcast.